Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Oggi avremo ospite il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, neosindaco che ha vinto a Venezia, è la prima volta che parla, alle 8:40 sarà con noi per parlare di questa sua vittoria. È certamente un uomo politico che desta molta curiosità, lo conosceremo, così come parleremo di un caso abbastanza clamoroso, non è finito proprio sulle prime pagine dei giornali, ma ne abbiamo parlato comunque, il presunto boss dell''Ndrangheta che non sta più in carcere nonostante abbia una condanna di 14 anni, perché gli psichiatri dicono la sua detenzione non è compatibile con la sua condizione psicologica e psichica, e quindi arresti domiciliari. È il caso di Giulio Lampada, che è stato processato e condannato per affiliazione all''Ndrangheta a Milano. Ne parleremo alle 8:15, avremo anche uno degli psichiatri che ha firmato la consulenza in base alla quale il giudice ha detto vada pure a casa agli arresti domiciliari. Intanto andiamo a leggere i giornali, In questo mercoledì 17 giugno i titoli, il Sole 24 Ore apre ancora sulla Grecia, la situazione, sapete, è molto delicata, sugli accordi che non arrivano, Grecia tassi da default, questo è il titolo, bond a 2 anni al 30%. Il Corriere della Sera invece, la situazione politica dopo che ieri Renzi è andato a porta e ha parlato di tante cose, e il titolo è sulla scuola, così slittano le assunzioni dei prof, il Premier ha l'attacco e avverte con 3.000 emendamenti alla riforma, non ci riusciamo. Repubblica, Renzi è il momento più duro, saltano le assunzioni nella scuola. Per il Fatto Quotidiano, Renzi, vendetta sulla scuola, stop a 100.000 assunzioni. Anche La Stampa, scuola, Renzi avverte, niente assunzioni. Così è il titolo di apertura del Secolo XIX, scuola, stop alle assunzioni. Poi la rottamazione vera e propria di Marino in diretta, da parte di Renzi. Il Messaggero, Renzi, Marino, governi o a casa. Libero invece, basta buonismo, clandestini in cella, ce lo chiede l'Europa. Il Giornale, immigrati Francia e Germania ridono in faccia ad Alfano. Apre sulla scuola anche il Manifesto, parla di ricatto e il titolo è questo, 100.000 ostaggi sono le mancate assunzioni alla scuola che Renzi dice sono dovute alla mancata riforma. Avvenire, Renzi torna a scuola, dialogo e gioco duro. Dà anche l'ultimatum a Marino. Ma voglio iniziare con questa, che è una notizia per molti di colore, in realtà è una notizia che prende molte pagine sui giornali, tutti i giornali dedicano chi mezza pagina, chi una pagina, la nuova disfida tra Italia e Francia non è sui migranti, ma avviene per una dichiarazione fatta dal ministro dell'ecologia Ségolène Royal, fatta alla TV Canal Plus. Prima abbiamo anche mandato in onda l'audio. La dichiarazione di Ségolène Royal che se la prende con la Nutella, i francesi che se la prendono con la Nutella, così la chiama lei, la Nutella, eccola qui, la Nutella che secondo Ségolène Royal, ministra dell'ecologia, contiene l'olio di palma da cocco, no, l'olio di palma, e quindi questo porta alla deforestazione per coltivare la palma da cui deriva l'olio. Ed ecco allora la dichiarazione abbastanza improvvisa. Bisogna smettere di mangiare Nutella, ha detto il ministro francese. Tanto che anche l'intervistatore gli ha detto: ma la Nutella è buona. Sì, ma non si fa. Non si fa perché contiene l'olio di palma. Eccola qui: la Francia ci respinge anche la Nutella. Una pagina di Libero a pagina 15, ma anche il Corriere della Sera a mezza pagina, Ségolène alla disfida della Nutella. La risposta del ministro all'ambiente italiano, Galletti, che su Twitter ha scritto: è sconcertante stasera per cena pane e Nutella. È partita la nuova sfida Italia-Francia. La Francia rosica ancora, non mangiate la Nutella, una pagina del giornale. E Jacopo Giliberto in prima pagina del Sole 24 Ore fa il commento: non si salvano le foreste boicottando la Nutella. Una frase a Canal Plus si candida per la bufala dell'anno: non bisogna mangiare Nutella, anzi Nutella, con l'accento sull'A, come dice il francese. Chi si immagina i luoghi comuni ricorrenti tra i consumatori poco evoluti e poco informati? È grassa, fa venire i brufoli, chissà con cosa è fatta, sbaglia. La ministra francese vorrebbe che il mondo rinunciasse alla Nutella perché a suo parere è poco ecologica. Tra i suoi ingredienti c'è l'olio di palma e per coltivare le palme da olio si abbattono alberi. In realtà, scrive Giliberto, l'olio di palma, per la sua versatilità e per il suo sapore finemente neutrale, è il grasso alimentare forse più usato dall'industria. C'è olio di palma in biscotti, sughi, surgelati, gallette, cioccolata, fette biscottate, gelati. Dovunque l'etichetta riporti l'ingrediente grassi vegetali, ebbene, quasi sempre è olio di palma, che interferisce pochissimo con l'aroma degli altri ingredienti. È perfino un combustibile di qualità per impianti a basso impatto ambientale. E le aziende più responsabili che usano olio di palma sono molte, fanno certificare da organismi indipendenti la sostenibilità delle colture e dei fornitori. Insomma, mai partito questa di sfida e questo boicottaggio francese, secondo il Royal, alla Nutella. Vabbè, chissà se daremo un po' di pane e Nutella a Michelle Obama, che invece sbarca oggi in Italia, pare sia già in Italia, oggi arriverà all'Expo e fa un'intervista alla stampa, intervistata da Paolo Mastrolilli, si presenta, parla dell'importanza della corretta alimentazione. Sapete che in America l'obesità è un problema molto, molto grave. Per battere l'obesità, più tempo alle donne, salari più adeguati, parla in questa intervista di due pagine alla stampa Michelle Obama, che racconta come il programma Let's Move, cioè muoviamoci, abbia dato inizio a un nuovo dialogo su come ci si vive e ci si alimenta negli Stati Uniti. 1.600.000 bambini ora frequentano asili più sani, dove frutta e verdura hanno sostituito biscotti e succhi di frutta. E nelle mense più di 30 milioni di bambini consumano prime colazioni e pasti di mezzogiorno più sani. Qual è la ricetta? Oh, so che siete curiosi, non vedete l'ora di sapere qual è la ricetta tipica e più sana per un americano medio. Secondo Michelle Obama, un tipico pranzo che piace alla famiglia Obama include proteine magre, cereali integrali e verdure, per esempio pollo al forno con riso integrale e broccoli, oppure pesce alla griglia con couscous e un'insalata verde. So che è placata e colmata la vostra curiosità estrema. Veniamo a cose che ci introducono più alla questione politiche, alle questioni politiche. C'è un retroscena molto interessante che è firmato da Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano a pagina 9 e riguarda il figlio di Silvio Berlusconi, uno dei figli, Luigi, e Marco Carrai, che è uno stretto consigliere e anche fidatissimo renziano, imprenditore. Luigi Berlusconi, Carrai e gli affari insieme in Olanda. Cioè il Fatto Quotidiano racconta che il migliore amico del premier, Marco Carrai, e il figlio più giovane di Berlusconi stanno per fondere le loro società per la gestione e analisi di dati raccolti in internet. Carlo Tecce racconta: negli affari funziona così, non esistono confini, solo interessi. Più che naturale, banale, se perfino Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti 10 anni fa provarono a trasformarsi da nemici a sodali. Senza il fardello dei rapporti passati, stavolta capita a Luigi Berlusconi, il più giovane degli eredi di Arcore, e gli affari conducono a Marco Carrai, discreto imprenditore fiorentino che permise e permette a Matteo Renzi di levigare le relazioni con la finanza, la diplomazia e il sistema internazionale. Insieme a Luigi Berlusconi, Carrai lavora una piattaforma per l'estrazione, la gestione, l'indagine su quelle statistiche telematiche, profili, abitudini degli utenti, che rappresentano il petrolio della rete. E qui si racconta tutto il legame attraverso le varie società tra Marco Carrai e Luigi Berlusconi. Ovviamente i complottari subito parleranno della vicinanza appunto tra Renzi e Berlusconi attraverso l'imprenditore amico e uno dei figli. Ma siamo al momento dell'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Qualcosa ieri Mauro Meazza ce l'aveva detto, dicendo che sarebbe stata una delle altre notizie da mani sul volante. Tenetele strette le mani sul volante se siete alla guida, perché Mario Giordano su Libero racconta sotto questo titolo: tolgono i soldi ai terremotati per darli ai Rom. Ora, l'associazione è un po' esagerata forse. Comunque, in Emilia-Romagna i terremotati restituiscano i rimborsi avuti. Dobbiamo finanziare i Rom. Sembra impossibile. Ma in Emilia-Romagna in queste ore sta succedendo questo. Da una parte una legge che stanzia 700.000 euro per l'inclusione dei nomadi. Dall'altra una serie di beffe per le vittime del sisma che, oltre a dover pagare l'IMU sulle case ridotte in macerie, ora si vedono costretti a rendere i contributi ricevuti per le notti della paura. È successo al signor Maurizio Farinelli di Carpi, pensionato invalido, che ha trovato nella cassetta un ordine tassativo: o restituisci subito 266,66 euro o procediamo al recupero coattivo dell'importo. La sua colpa? Avere trascorso lunghi mesi in tenda e soprattutto non essere Rom. La storia del pensionato Farinelli ieri è stata raccontata dalla Gazzetta di Modena. Nel 2012 ebbe tanta paura, qualche danno in casa, qualche crepa, tanto che non chiese aiuto a nessuno, ma prese la sua tenda e la piazzò alla polisportiva Pietri. Per ricompensarlo del disagio gli diedero un po' di soldi per autonoma sistemazione. Ora però gli chiedono indietro una parte di quel contributo, oltre la metà di quei soldi. E non è un caso isolato, stiamo scrivendo a un certo numero di persone, confessa l'assessore competente del comune di Carpi, per richiedere soldi. E come mai ce lo chiede la regione? Questa è la risposta. In base a cosa? Non conosco i singoli casi, ma il regolamento in materia è stato modificato. E racconta Libero, ma non è meraviglioso? Non conoscono i singoli casi, scrive Mario Giordano, ma il regolamento è stato modificato. Dunque, in base alla modifica, il terremotato deve pagare questa colpa gravissima. Avendo avuto paura, ha cercato di arrangiarsi da solo. Ma è matto questo signor Farinelli? Arrangiarsi da solo? Non lo capisce come va il mondo? Se si fosse messo a piangere in mezzo a una strada, se si fosse impegnato a mungere la vacca pubblica, ecco, allora avrebbe avuto tutto il rispetto delle istituzioni. Se poi fosse andato a rubare alla stazione dei treni qualche scippo, un po' di borseggi, avrebbero detto: oh poverino. E invece è solo un terremotato italiano. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Miren, il Mario Giordano dell'informazione. Ma io non lo so, dai, ma insomma, dai. Mi sembra giusto, visto che abbiamo letto l'articolo di Mario Giordano. Non male come imitazione. Allora, cari ascoltatori, ieri Renzi è andato a porta da Bruno Vespa e ha parlato un po' a 360 gradi di tutto quello che succede a livello politico. Intanto la questione Roma. Ha parlato in una maniera come mai ha fatto prima, dopo che ieri sulla stampa veniva data ha detto questa frase Renzi: se torna il Renzi 1 Marino, fossi Marino non starei tranquillo, che suonava molto come il Marino stai sereno e poi Letta stai sereno e poi sappiamo come è andata a finire. Ebbene, ieri a porta ha rincarato la dose. Renzi ha detto in pratica la giunta e lo stesso Marino si guardino allo specchio, o si governa o si va a casa. E sentite nel retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera cosa dice Renzi ai suoi, quindi non davanti alle telecamere ma fuori nei retroscena: dovremo sacrificare Roma o di qui a qualche mese saremo travolti tutti. Questo dice Renzi, sa che tutti gli chiedono un colpo d'ala che lui non vuole dare perché l'importante è governare bene, ma quel Marino che non ha mai amato, secondo lui, deve fare un passo indietro. È tornato il Renzi rottamatore. Del resto non ho forse vinto così, scherza con gli amici, ma aggiunge: voteremo l'anno prossimo a Milano, a Torino, a Napoli e a Roma. Marino dovrà farsene una ragione. E secondo il Corriere della Sera, Renzi ha già individuato colui che dovrebbe essere il candidato del PD dopo Marino. È Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera ed ex braccio destro di Rutelli al Campidoglio. Insomma, i tempi della politica, poi lo sappiamo, sono così, ma una volta che vengono pronunciate queste frasi, sembra ora semplicemente di contare i giorni dal momento in cui Marino verrà dimissionato. Questa è la parola che viene utilizzata più spesso. C'è da dire che però Marino non ha nessuna intenzione di farsi dimissionare, per l'appunto. La resistenza del sindaco, il Messaggero a pagina 3, sono nel giusto, non mollo, davanti alle telecamere dissimula, fa finta di nulla. La giornata di resistenza del marziano dimezzato, come lo chiamano in Campidoglio gli uscieri, sempre pronti ad annusare l'aria che tira, è tutta così: dissimulare in pubblico, negare l'evidenza, non rispondere agli affondi di Renzi, che più passano le ore più diventano ultimativi. Addirittura Renzi, alla Camera, intercettato a una domanda su Marino di un cronista, ha risposto: mi scusi, ma parliamo di cose serie qui. E in che Marino si sente sempre più assediato, abbarbicato in Campidoglio. Poi lo sfogo al telefono con Orfini, che è il presidente del partito e commissario del PD a Roma. Anche il Corriere parla del sindaco asserragliato. Io non mi dimetto. Questa frase attribuita, racconta Ernesto Menicucci, al sindaco di Roma, ai suoi, se lo sognano se io mi dimetto. E così Repubblica. Governi sei capace, ma al sindaco io tiro dritto. E, insomma, questa è la situazione per quel che riguarda il Comune di Roma. Sembra destinato a essere dimissionato, sembra segnato al destino di Ignazio Marino, che però tiene duro e si arrocca al Campidoglio. Poi c'è la questione della scuola. Renzi ha detto chiaro e tondo: siccome ci sono 3.000 emendamenti alla riforma della scuola, quest'anno slitteranno le assunzioni per 100.000 insegnanti. Ed è qui che è partito il putiferio. È un ricatto bello e buono. Questo è il titolo, per esempio, del Fatto Quotidiano, così come hanno detto i sindacati. La vendetta di Renzi sulla scuola. Stop a 100.000 assunzioni. L'ipotesi è quella di far saltare tutto. E quindi ecco che riparte sul tema della scuola grande dibattito. Secondo Goffredo De Marchis, a pagina 2 di Repubblica, nel retroscena, Renzi dice così: vediamo ora come rispondono i sindacati, se vogliono o no l'assunzione di 100.000 precari. Una cosa è certa: io non farò mai una sanatoria. Le assunzioni sono legate alla riforma della scuola, altrimenti si faranno nel 2016. Questa dunque è la linea di Renzi, come dire, il ricatto politico, se la volete mettere così. O mi approvate la riforma della scuola oppure le assunzioni slittano all'anno prossimo. Certo, nello stesso retroscena De Marchis racconta che c'è un sondaggio che in questo momento certifica che il grado di popolarità di Renzi dal suo arrivo alla segreteria del PD e dopo poco l'insediamento alla presidenza del Consiglio è al punto più basso di popolarità tra gli italiani. Ed ecco allora l'idea del rilancio, che passerà anche attraverso un piccolo rimpasto di governo. Cesare Damiano sarà il sottosegretario allo sviluppo economico per sostituire De Vincenti. Enzo Amendola invece avvicenderà Lapo Pistelli come vice ministro agli esteri, mentre il Ministero degli Affari Regionali è sempre competenza del nuovo centrodestra, in attesa che decidano il nome giusto. Comunque sulla scuola si consuma l'ennesimo scontro, tanto che il Fatto Quotidiano, prendendo forse spunto questo sondaggio che dà il minimo di popolarità a Renzi, si domanda a pagina 4, e lo fa chiedendolo a Enrico Mentana, a Pietrangelo Buttafuoco, a Gianfranco Pasquino, a Daniela Ranieri: l'Italia sta forse già rottamando il rottamatore, cioè Matteo Renzi? Vedete come in politica poi le cose cambiano in frettissima. È molto distante, sembra in questo momento, l'epoca in cui Renzi, o meglio il PD, faceva il pieno di voti alle ultime europee, il famoso 40 e rotti per cento. Comunque, si rischia lo slittamento sulla scuola, staremo a vedere. Si rischia le dimissioni di Marino, staremo a vedere. Sulla questione di Mafia Capitale, per la verità, c'è anche da aggiungere dal punto di vista dell'inchiesta che Salvatore Buzzi chiede il patteggiamento e chiede anche di pagare 900 euro di multa. 900 euro di multa. Ha chiesto di patteggiare la pena con una condanna a 3 anni e 6 mesi, la multa di 900 euro, la Procura di Roma per la verità ha dato parere negativo, ma Salvatore Buzzi vuole comunque chiudere la vicenda processuale così, con un patteggiamento. Vabbè, poi c'è tutta la questione dei migranti, la vedremo tra poco perché intercetta l'Europa, ma a proposito di Europa, l'Europa e soprattutto la Grecia sono ai ferri corti. Per la verità, la Grecia soprattutto ha tuonato contro il Fondo Monetario Internazionale criminali. Questa è l'accusa del presidente del governo greco Tsipras. Il premier greco dice dal Fondo Monetario politiche criminali che hanno portato la Grecia in questo stato. Caro Mauro Meazza, la vedo dura. Buongiorno Alessandro. Criminale l'ha detto al fondo, non era per me. No, perché ma fai per sempre carità. Questi accostamenti. Ma no, l'ho detto chiaramente. Lui l'ha detto al Fondo Monetario. Poi sai che, come dire, il premier greco ha sempre un po' delle parole in un modo in patria e in un altro va a Bruxelles. Vedremo perché domani già potrebbe essere una giornata, dillo tu. Decisiva? Decisiva, sì. Ma sicuramente, insomma, è il mese decisivo. Peraltro, appunto, come già segnalavi all'inizio della rassegna stampa, c'è ieri stata questo innalzamento importante del rendimento dei bond, quindi al 30%. È difficile rimborsare a questi livelli per la Grecia, ma sarebbe difficile per chiunque. Oggi sul Sole 24 Ore, tra l'altro, proseguiamo sempre l'azione di bussola, cioè come comportarsi dal punto di vista dei risparmi, cosa bisogna temere, da cosa bisogna guardarsi. C'è una bussola appunto anche a pagina 3, ma ieri c'è stata una cosa abbastanza importante che direi si può anche definire positiva, cioè la Corte di Giustizia europea ha detto che va bene, che Draghi può fare gli acquisti di titoli di Stato sul mercato secondario, insomma il piano degli anti-spread, quello per evitare l'estate dello spread. Lo riferiamo oggi su Sole 24 Ore, tutti i particolari in cronaca, come si diceva una volta. Va bene, si possono fare queste operazioni, tutto sommato, e teniamo le dita incrociate, potrebbe essere una buona notizia. Poi ti segnalo che, cambiando completamente argomento, quel decreto famoso che manca per l'IMU delle piccole e medie imprese mediane che hanno dovuto pagare ancorché terremotate, in realtà avrebbe dovuto garantire e salvaguardare anche i terreni agricoli colpiti da xylella. E però il decreto non c'è. Mario Giordano anche su Libero oggi, no? Ha preso un po' la notizia anche del Sole. Intanto richiedono indietro un po' di adesso però se il decreto arriva, letto sul Sole 24 Ore, se arriverà prima o poi, i comuni restituiranno. Attendiamo il decreto. Io ho messo il vestito buono per l'arrivo. Attendiamo il decreto. Guarda se per caso non c'è l'ito ai giornali, sai che hai sempre un disordine su quella scrivania. Infatti, questo è vero, ma no. Che mi dà anche un po' fastidio. No. Poi ti volevo dire che oggi diamo, come ogni mercoledì, un supplemento, un focus, un approfondimento che è dedicato al nuovo falso in bilancio, ai nuovi reati societari, 16 pagine soprattutto di domande e risposte su questa materia. E tra l'altro oggi diamo anche un altro supplemento che si occupa invece di motori. Sì. E di motori parliamo anche su imprese e territori. Perché? Perché ci sono stati ieri i dati della vendita di auto in Europa, è andata abbastanza bene, va meglio in Italia, comunque un più 1,4% di immatricolazioni in Europa. Vabbè, insomma è il dato, diciamo, sempre in crescita, non si aspettava qualcosa di più, ma bene così. Ma perché ti parlo di automobili, di motori? E chi lo sa? Ma perché devo dirlo a questo punto? Traffico! Alessandro Milan, la chitarra elettrica dell'informazione. Dai, manda Jimmy tutto. Grande. Vabbè, lo so, come sempre in questo momento dispiace interrompere Jimi Hendrix, ma insomma, girate su RDS e ascoltate Rossella Brescia se volete, se no qui c'è la rassegna stampa. Allora, l'immigrazione, il dibattito continua. Visto per tutti quelli che guardano i buonisti, sentite che cosa ha detto in una lettera certificata il commissario all'immigrazione Avramopoulos. Ha mandato una lettera a tutti gli stati membri e ha ricordato che bisogna comportarsi così. In caso di immigrati irregolari, la soluzione migliore è quella della detenzione. Detenzione fino al massimo di 6 mesi e poi l'espulsione e il rimpatrio. Durante e dopo il processo di identificazione, scrive il commissario Avramopoulos, per essere sicuri che i migranti irregolari vengano effettivamente rimpatriati, dovrebbe essere applicata la detenzione come legittima misura di ultima istanza, dove questo si renda necessario per evitare la fuga dei migranti irregolari. Questo è quello che fa scrivere a Libero, addirittura in prima pagina, il titolo di prima pagina com'è? Vai a trovarlo, Libero si nasconde. Clandestini in cella, ce lo chiede l'Europa. Questo è il titolo di prima pagina. In realtà succede che le immagini dello scempio, le persone sugli scogli, la polizia che li sgombera, in alcuni casi anche con la forza, bambini che piangono, insomma, diciamolo chiaro, io lo dico da 3 giorni, dà l'idea di un paese che su questo tema è allo sbando. Cioè non c'è una politica seria, una politica codificata, un qualcosa per cui da 20 anni bisogna parlare di emergenza. Siamo un paese di confine, abbiamo dei mari che sono i nostri confini e da 20 anni ci ritroviamo a gestire di volta in volta, praticamente ogni anno, situazioni così emergenziali vengono definite. E infatti è interessante quello che Marco Menduni scrive sul Secolo XIX, il resoconto di quello che è successo a Ventimiglia, profughi trascinati sui bus, polemiche a Ventimiglia, l'intervento troppo duro, dicono, ma la polizia risponde così. Sentite cosa dicono alcuni funzionari di polizia: non sappiamo che fare, da Roma non arriva alcun segnale. Ecco, questa è la frase, non il mio parere che non conta nulla, ma una frase del genere, una frase che certifica lo sbando, la mancanza di una politica. La polizia che dice non sappiamo che fare, e quando non ci sono delle linee precise succede anche che poi c'è lo sgombero, quello che usa la forza, quello che... perché non si sa cosa fare, non c'è una linea, non c'è una linea precisa. Il giornale addirittura racconta in un reportage che cosa? Due nostri giornalisti si sono trasformati in passeur, cioè hanno fatto quelli che si vengono chiamati anche gli spalloni, no? Che portano o merce o in questo caso uomini al di là del confine. Andrea Quarone e Giovanni Masini raccontano a pagina 8 come partano da Milano, fanno una trattativa, un accordo economico, ovviamente un accordo economico simbolico per poi testimoniarlo nel reportage, per 200 euro portano al di là del confine, passando tra ovviamente strade non controllate dalla polizia, strade secondarie, si arriva in cima ai monti, 60 km in linea d'aria dal mare della Francia, poi si scende tra strade, tra massi, burroni, eccetera, ce la facciamo e portiamo due ragazzi, uno è un ragazzo di 24 anni, uno è un uomo di 47, Cassù di 24 anni e Sankù di 47, che arrivano da Tambacounda, ex colonia francese in Senegal, hanno ciascuno un trolley in mano, rosso, piccolo ma vistoso, li portiamo dall'altra parte del confine e raccontano tutta questa avventura sul giornale a pagina 8. Va bene, ma sull'immigrazione ci sono tanti temi. Voglio leggere però un'intervista che farà partire il classico dibattitone in Italia. Se ne parlerà certo, perché Beatrice Lorenzin, ministro alla salute, dopo aver partorito 2 gemelli, torna a lavorare. Fa la prima intervista a Margherita De Bac sul Corriere della Sera. Al ministero abbiamo il nido, subito al lavoro con i bimbi. E subito nell'Italia dell'odio sociale già si scateneranno. Ecco, certo, facile, tu hai il nido, tu sei ministro, tu sei politica, tu sei ricca, tu avrai 6 tate. Subito il dibattitone lo vedo già. Comunque, Lorenzin, mentre allatta Lavinia e Francesco, viene intervistata dal Corriere. Non parla di politica ma della maternità. Appena i bambini potranno uscire sarò in ufficio con loro. Al ministero abbiamo il nido finanziato coi contributi dei dipendenti. Li metterò lì e continuerò ad allattarli finché posso, spero almeno 6 mesi. Racconta dell'ultimo mese di gravidanza passato fermo a letto con i collaboratori al mio fianco e fino all'ultimo firmato documenti e chiuso progetti importanti. Racconta del parto parto, un cesareo d'urgenza. Domenica 7 giugno ero a casa, stavo scrivendo, ho sentito dei doloretti strani e il mio ginecologo mi ha detto vai subito in ospedale, dopo mezz'ora ero in sala operatoria. Parla della maternità non abbastanza rispettata in Italia, soprattutto in Italia dove non si fanno più figli. Eccolo qui, via al dibattitone sulla rete, poi tra 10 minuti o tra 10 giorni o tra 2 giorni non se ne parlerà più. Ma siamo al momento della carta costa e torniamo anche in diretta su Periscope. È tornato Lorenzo Nespoli, siamo in diretta su Periscope. Eccolo qui la carta costa, una pagina del giorno intera. Attenzione amanti dello yoga, fate yoga? Praticate yoga? Siete amanti dello yoga? Attenzione perché Hieronymus, che è l'arcivescovo di Atene, primate ortodosso, insomma, il sinodo di Grecia ha detto che lo yoga è una pratica induista e quindi non è compatibile con il cristianesimo. Ma chi se ne frega? Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.